Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di approfondimento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo al telefono l'avvocato Maria Grazia Cangemi. Ben trovato, avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Partiamo e parliamo di rivalutazione pensioni. Se ne era parlato già lo scorso autunno, ma c'è una novità che riguarda anche un altro settore dei cittadini italiani. Ma partiamo, avvocato, da quello che era stata appunto la vicenda dell'autunno scorso riguardante i pensionati. Allora sì, sostanzialmente l'autunno scorso avevamo visto la sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo il blocco delle pensioni. In relazione a questo, Adico aveva messo in mora, quindi aveva diffidato l'INPS e di conseguenza il governo a provvedere alla liquidazione delle pensioni al di là degli scaglioni che erano stati formulati con la liquidazione una tantum. All'epoca i pensionati coinvolti non erano tutti, ma quelli oltre un certo limite, cioè quelli con le pensioni più alte, giusto? Le pensioni più alte non hanno visto il riconoscimento dell'una tantum, erano state riconosciute delle cifre sotto una soglia, quindi in base allo scaglione di riferimento veniva liquidato una tantum. Superato lo scaglione non si sono visti riconoscere alcun bene. Novità che però riguarda queste settimane è per i dipendenti pubblici. Cosa succede? Allora, è una vicenda che risale al 2009-2010, quando i governi all'epoca e poi il governo Monti, per far fronte all'austerity, hanno bloccato l'adeguamento degli stipendi degli statali e avevano bloccato il rinnovo contrattuale. Dopo circa 5 anni la Corte Costituzionale si è espressa in merito dichiarando l'incostituzionalità e quindi l'illegittimità di tali provvedimenti. In relazione a questo, dal 30 luglio 2015 il governo avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione degli adeguamenti degli stipendi, ma a distanza di quasi 2 anni nulla è stato fatto. I dipendenti pubblici continuano a percepire la loro retribuzione senza l'adeguamento Istat e ad oggi non hanno ancora un rinnovo contrattuale, quindi siamo in presenza di una vera e propria vacanza contrattuale. 2 anni sono passati, che novità ci sono in questi giorni? In questi giorni noi di Adico stiamo provvedendo mettere in mora il governo e i rispettivi ministeri affinché provvedano alla liquidazione degli arretrati, quindi ricordiamo che si possono richiedere gli arretrati dalla data della sentenza della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato che tale sentenza non è retroattiva, quindi sarà possibile richiedere le somme dal 30 luglio 2015 fino all'effettivo soddisfo, quindi all'effettiva liquidazione degli imposti. Quindi noi come Adico stiamo predisponendo per i nostri soci una lettera di diffida da inoltrare ai rispettivi ministeri con la quale si richiede la liquidazione di questi importi. E questa è l'unica via per poter avere appunto questo ristoro? Sicuramente è il primo passo per appunto attivarsi e non rimanere immobili e far sì che inizi a prendere il sopravvento un'eventuale prescrizione del credito. Da quando si può fare? Noi siamo operativi già da luglio, da lunedì, scusatemi. E allora, tutti i dipendenti pubblici interessati, insomma, sono tanti, perché, avvocato, parliamo di dipendenti dai comuni fino ai ministeri. Sì, sono veramente talmente tanti che ci aspettiamo appunto una richiesta massiccia. Ricordiamo che muoversi in massa fa sì di avere degli ottimi risultati. E allora invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi, eventualmente anche ad associazionedifesaconsumatori.it. Grazie all'avvocato Maria Grazia Cangemi e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.